Now more. Let's go. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Parte Pjanic! Strepitoso Milan Pjanic! All'incrocio dei pali porta avanti la Juve! Quest'anno va di moda che la Juventus non gioca bene. Io dico che per vincere i campionati bisogna lottare, soffrire, e la Juventus non può giocare al 50% come tanti che si intendono di calcio vorrebbero e pensano. Va bene? La Juventus per vincere lo scudetto deve lottare partita su partita per arrivare in fondo e conquistarsi lo scudetto. Tocco in mezzo a cercare Dzeko, il pallone gli arriva, Dzeko, poi Sala. Tre volte Salah sulla risposta di Da Costa, così, hat-trick, tripletta per Salah. Non è per forza che la vittoria si debba portare a casa un titolo, ecco, ma quando infondi un modo di lavorare corretto, partecipi poi alla ricerca di migliorare sempre in maniera seria, in maniera professionale, c'è un modo di frequentare il campo dove tutti vogliono la stessa cosa e atteggiamenti, come dici sempre te, no? È ugualmente un risultato. Calcio d'angolo, Bonaventura, forte per la Padula, Posavec, Suso al volo, colpo di tacco e gol! Così l'ha fatto la Padula! E questo è il suo primo gol con la maglia del Milan, è veramente bellissimo! Siamo molto contenti del risultato, naturalmente molto contenti della classifica. Adesso c'è questa sosta, ce la prendiamo per ricaricarci sotto tutti i punti di vista. Ci sono tante cose su cui lavorare, ci sono degli spunti interessanti che la squadra ha fatto vedere anche in termini positivi, e quindi c'è la serenità per poter lavorare sugli errori dopo una vittoria di questo tipo. Ciao a tutti ragazzi, 800240024 per questa giornata di campionato e di sport che insomma ci dice che le prime tre della classifica vincono, quindi non cambia niente per quanto riguarda le prime tre posizioni. Torna a vincere anche l'Inter dopo il casting, questa volta con il Crotone in maniera non semplice. Di questo parleremo di Roma, di Napoli, di Atalanta e Torino, che sono le squadre di fatto rivelazione dello scudetto, e lì nella ventre della classifica che si vede qualcosa di interessante. Pierluigi Pardo, comincio con un cazziatone con te. Che è successo? No, tu avevi preso in giro, per i nostri ascoltatori più attenti lo sanno, De Luca, per la storia del campetto che abbiamo fatto fare a Corantuono, abbiamo fatto collocare i giocatori, eccetera. Ebbene, gli abbiamo portato fortuna, quantomeno, perché il mister andrà a allenare il Bari. Certo, però tu non sai che, con tutto rispetto per il Bari, lui era in corsa per il Barcellona, e poi i dirigenti del Barcellona hanno sentito questa cosa del campetto e hanno rinunciato, e lui va al Bari, che è una grandissima panchina, città importante, gli facciamo un grande in bocca. No, scherzo, abbiamo portato bene, sono contento, perché mi spiace ovviamente per Stellone, però insomma sono contento per il mister, anche perché stiamo parlando di una delle piazze più belle, sì, ma veramente anche ambiziose, una delle insomma città che, vabbè, poi sai che me ne piacciono tante in realtà, però insomma Bari può dare tanto, se vi ricordate l'anno della meravigliosa stagione fallimentare, hanno fatto anche un lungometraggio bellissimo che è stato pluripremiato giustamente, perché insomma quando si riaccende la passione a Bari si parla di 30-40 mila, con grande serenità. No, ma chiaro, lì è una grande piazza Bari, è una grande piazza prestata per troppo tempo alle categorie minori, quindi tiriamo le orecchie parzialmente a De Luca, che ha impedito con Antuono di andare al Barcellona. Però, scusa, vorrei capire la schedina, perché io sono veramente curioso. La schedina, adesso te la dico, perché abbiamo tenuto tutti i conti. Magari ho fatto 9 o 10 io, secondo me. Adesso me lo faccio dire da De Luca, perché noi non è che scherziamo già la schedina così tanto per, scriviamo tutto. Senti, una delle cose più divertenti comunque del weekend, della domenica, è stato lo scazzo televisivo tra Allegri e Sconcerti. Sentiamo. A Sconcerti gli dico una cosa, gli do un dato, visto che lui è amante dei numeri. L'anno scorso lo sa quante partite ha vinto la Juventus per 1-0? Visto che la Juventus l'anno scorso ha vinto 25 partite su 26? Credo 14. 14 partite 1-0? Credo, ho detto credo. Sto no. andando a memoria. No, no, a memoria no, se lo dico io. 7 partite 1-0, 7 partite 1-0, vuol dire portare a casa 21 punti con partite sofferte come quella di oggi. E quindi Allegri si difende mica poco, ma va avanti. Noi al momento abbiamo vinto 2 volte 1-0 a Roma con la Lazio e a Palermo, e abbiamo vinto 5 volte con tre gol più di scarto. L'anno scorso in tutto il campionato abbiamo vinto 9 volte in tutta la stagione con 3 gol di scarto. Io ti ringrazio, questo, ma ero convinto Li faccio finire. Fatto perché un complimento, pensa te. No, ho detto no, che era una buona Juve. C'è la moda che giocata male. No, perché c'è la moda che giocava male. Capito, Pardo? Ma il soldato Allegri alla fine. Il dentino avvelenato. Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, no? Allegri è tutt'altro che una formica. È un grande incassatore. No, perché non è una formica, ma è un grande incassatore. Quindi è un uomo abituato sicuramente a non. Però evidentemente insomma, di là adesso non avevo seguito la frase di Sconcerti. Credo che l'onestà intellettuale di Sconcerti sia veramente al di sopra di qualsiasi sospetto, quindi insomma non penso proprio che ci fosse malizia, però ogni tanto uno gli può partire un po' di certo. Gli può partire così la vena, perché evidentemente si sente un po' sempre di dover dimostrare sempre qualcosa, quando di cose ne ha dimostrate mille, certo, un vecchissimo discorso che ho fatto mille volte. Senti, ci fermiamo per il traffico, poi aspettiamo un amico, un ospite. Traffico. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Convocati. Sinceramente il reparto in questo momento dove stiamo facendo non fatica, però dove siamo corti è centrocampo, perché alla fine abbiamo tanti giocatori che non stanno nel massimo delle condizioni, perché a Samoa Sturaro è stato fermo tanto, Lemina comunque non sempre al 100%. Marchisi è rientrato da un infortunio grave. Come facilmente pronosticabile ieri ai microfoni, me l'ho detto nei giorni scorsi, si è presentato anche Bonucci, che fa parte del trio dei senatori Evra, Buffon, Bonucci e all'occorrenza Chiellini, che parlano e dicono cose estremamente sagge e importanti e pesanti insieme ad Allegri, ovviamente nei momenti di difficoltà. Pardo, tu sai che per noi è sempre un onore quando c'è Giancarlo Marocchi, no? Certo, cioè, ma è anche un piacere, perché è anche poi alla fine... piacere. Sì, sì, sì. È un grande piacere. A metà fra il piacere e l'onore. Che scemo. Ma non esagerate, però. No, è proprio una libidine, è proprio un godimento quasi fisico. Allora esagerate. Diamoci dentro. Siamo tutti eccitati come i ricci. No, senti Giancarlo, tre grandi temi mi pare in questo momento del campionato: la Juve che gioca male, vince, e prima abbiamo fatto ascoltare lo scazzo tra Allegri e Sconcerti, che avrai certamente sentito anche tu, l'Inter che finisca di giocare a X Factor e pare promuova Pioli, anche se Ausilio ha chiesto qualche altro momento per diramare comunicato ufficiale. Io suppongo che domani sarà in campo a dirigere ciò che resta dell'Inter, perché van via tutti la nazionale. La Roma che tiene botta, il Napoli no, con qualche crepa interna, diciamo così. Sì, il nostro campionato ci dice sempre un sacco di cose, poi dopo meno male arrivano le partite, tutti si possono rifare, perché anche per le prime in classifica non facciamo sconti, ma d'altronde mi sembra normale, cioè capire qualcosa, dire le cose come si vedono, perché avevo già cominciato un po' io appena dopo la partita a chiedere alcune cose ad Allegri, perché poi alla fine la classifica è vero, dice 30 punti, dice primi, va tutto bene, però sul come è innegabile che la squadra si affidi più ai colpi dei campioni, alla solidità e alla determinazione di conquistare i punti che alla solidità di gioco. Questo cioè, è talmente evidente, e poi dopo mi sta bene anche che Allegri dica, cioè mi interessa solo il risultato, io dico solo semplicemente sì. Non ci si adagi su questo. No, ecco. Però dico io, anche a Pardo, potrebbe essere normale per una squadra che ha in testa l'idea di arrivare a marzo nelle condizioni migliori, quella di viaggiare in questo modo, sapendo di essere più forte di tutte le altre nello stagno del nostro campionato, può essere un atteggiamento, direi, normale, Pardo? Ma sì, ma insomma la Juve, io dico sinceramente, mi sembra tutto abbastanza ripetitivo, anche abbastanza noioso, nel senso che la Juve continua a vincere certe partite quasi per inerzia, per evidente superiorità, non perché nessuno si scansi, sia ben chiaro, certamente non si è scansato il Chievo, lo dico, prevengo la domanda eventuale o l'eventuale polemica, ma perché comunque alla fine ha più qualità, più risorsa, più talento, più colpi, e quindi anche ieri è abbastanza indicativo che insomma la vittoria porti le firme di Mandžukić e Pjanic, che sono due dei giocatori fino a questo momento più discussi, no? Meno brillanti, e questa è la forza di una squadra. C'è una cosa interessante secondo me, cioè che la Roma ha preso nelle ultime 6 partite un passo notevole. Se noi guardiamo il percorso della Roma nelle ultime 6 gare, vediamo 5 vittorie e un pareggio, la Juve 5 vittorie e una sconfitta, quindi vuol dire che ha recuperato un punto, ma al di là del punto vuol dire che la Roma ha avuto una regolarità di passo nelle ultime 6 partite che potrebbe, non lo so, però potrebbe continuare, e chiaramente il campionato da questo punto di vista è lunghissimo. E sì, la Roma ha preso una mazzata con l'eliminazione da parte del Porto. Chiaro. All'inizio della stagione, polemiche, botta psicologica enorme, potrebbe essere stata riassorbita e adesso essere incarreggiata. Certo. Detto questo, secondo me in una gara di regolarità la Juve è sempre avanti. Sì, magari nella partita secca può non essere così, ma in una gara di regolarità la Juve sbaglia, a parità sbaglia meno. Però certo. era molto interessante, la tua domanda è molto precisa, quella sull'obiettivo marzo. E allora facciamo una cosa, aspettiamo ancora qualche settimana che si inserisca bene Marchisio, poi è quello il vero focus della Juve quest'anno, arrivare a marzo per la Champions al top. Mi sta bene però con un'idea precisa, cioè andando a capire se Dani Alves in particolare è proprio un valore aggiunto rispetto all'Iksteiner, ecco. Questo è il vero percorso che deve fare Allegri. Guarda Gianca, mi sembra che ci stia pensando, no, Allegri, su questo, perché la coppia migliore in questo momento di esterni è l'Iksteiner-Alessandro. Quantomeno sai dove sono durante la partita. Bravo, quantomeno sai dove sono. Quanto alla Roma, Spalletti dice sì, noi giochiamo bene, ma la Roma secondo me è una seria candidata allo scudetto delle altre. Sì, sì, la Roma è candidatissima al solito secondo posto, esatto. Che fra l'altro ha anche rotto un po' le scatole nell'ambiente giallorosso, ovviamente, anche se non è da buttare via, perché significa la Champions, lo scorso anno non è arrivato, quindi è qualcosa di molto importante e di molto preciso. Però insomma la sostanza è questa: la Roma ha avuto più problemi, più casini, l'eliminazione in Champions, tanti infortuni, anche la Juve ha avuto qualche infortunio, ma la Roma ne ha avuti veramente tanti, la difesa è tutta da inventare, però adesso ha preso un buon passo, quindi se sarà in grado di continuare così potrebbe essere un campionato più incerto. La Roma è un ostacolo non da poco, ma nella sua storia, che i campionati durano 38 partite. Ecco, chi lo sa, Spalletti ci sta provando a normalizzare le vittorie, però a Roma probabilmente non è semplice, anzi è difficilissimo, però è l'unica cosa cioè che la rende diversa dalla Juve, per il resto è veramente forte. E sì, bella anche. Bella anche da vedere, perché è una squadra piena di talento, probabilmente un po' corta, che sta dimostrando come ogni partita, anche ieri che non ha segnato, che Dzeko è un gran centravanti. Questa estate mi spernacchiavano quando lo dicevo, io invece lo ripeto e lo ripetevo anche l'anno scorso, quando pure mi spernacchiavano, ma non mi importa. 800 24 00 24. Invece posso dire una cosa volante, che sì, però ha detto Marocchi, secondo me è decisiva: normalizzare le vittorie. Mi viene in mente anche la frase di Sabatini, no? Il problema è che spesso alla Roma si vince e si perde nella stessa maniera. Questo è il vero tema, al di là del fatto che comunque stiamo parlando di una squadra che ha dovuto vendere, che è la Roma, che ha dovuto mettere per esempio la clausola su Pjanic, e di una squadra che compra, quindi è un tipo di dinamica non tanto diversa da quella che c'era qualche anno fa, quando la Roma doveva vendere i migliori giocatori all'Inter per riuscire a non a sopravvivere, perché la Roma non ha problemi di sopravvivenza, però per sistemare il bilancio mentre gli altri compravano. Quindi questo è il punto di partenza ed è la distanza che esiste fra le due duellanti di questo momento. Però poi c'è anche un aspetto, appunto, secondo me, caratteriale, ambientale, da questo punto di vista, la normalizzazione delle vittorie, cioè far sembrare le partite normali, le partite come per esempio la vittoria di ieri sera col Bologna, certo, una cosa normale, no? Non una cosa che ti cambia la vita, non una cosa un atteggiamento da un atteggiamento da grande squadra, quale per il nostro campionato la Roma è. Giancarlo, ti ha più divertito o più così depresso l'X Factor dell'Inter? Più intristito l'X Factor dell'Inter? Mi ha fatto sorridere, però io ci provo sempre a pensare come mai succedono queste cose. Tanto i cinesi immagino che programmino sempre a lungo, quindi vorranno stare a lungo all'Inter, quindi per loro una settimana in più e in meno gliene fregava il giusto, tanto avranno pensato, tanto il campionato non lo vinciamo, pensiamoci bene. E soprattutto una cosa importante che non ho capito e si intuisce solo, cioè finalmente che non decida Tohir, insomma, ma che decida la proprietà consigliata dai dirigenti italiani. Questa mi sembra la formula migliore, e quindi alla fine, se questa è stata la formula migliore, hanno scelto Pioli e io già sono contento, solo per il fatto che magari potrò fare una domanda a uno che mi capisce in fretta e proverà a darmi una risposta e dire: ma che cavolo succede all'Inter? Perché tutti diciamo che giustamente ce n'è di qualità, però non si riesce a fare la quadratura, o comunque non si riesce a fare una squadra. E quindi almeno uno che ci guardi dentro, che provi a raccontarci da dentro cosa succede. Certo, c'è poi chi ci sono molti che dicono i giocatori andrebbero presi e appesi al muro. Ci ha detto l'altro giorno Riccardo Ferri: io mi candido per farlo perché questi stanno facendo flanella. Però comunque almeno potrei parlare con Pioli e non con De Boer, che mi era anche simpatico, ma onestamente parlava come Bracco Baldo, dai. Sì, è vero, però buona volontà, tutto quello che cioè ha fatto il possibile, insomma. cioè non tantissimo. Un'ultima cosa, mi dai una battuta, Giancarlo Marocchi, sull'Atalanta e sul Torino, che sono due squadre che a me piacciono da impazzire. Allora, aggiungendo la Lazio, sono le tre squadre. La Lazio te l'aspetti un po', no? Ha un organico diverso. Sì, sì, perché ma infatti obiettivi diversi, ecco, perché per dire siamo la vera sorpresa, la Lazio dovrebbe arrivare nelle prime tre, il Toro in Europa League e l'Atalanta chissà dove, cioè Gasperini qui sta esagerando. Sì. Sta assolutamente esagerando, e quindi non sappiamo. Probabilmente non lo sa neanche lui. La cosa bella, il suo sorriso anche finita la partita e anche che continua, anche immagino durante la settimana, è che veramente si fa fatica a capire, perché alla fine ne ha messi tanti dei giovani, e quindi non è dire conti fino a dove può arrivare, sai, uno non può fare la differenza, ma qui sono 4-5 più altri due pronti a entrare, a subentrare, sono tanti, quindi è una scheggia impazzita che non mi immagino chiaramente al primo, secondo, terzo posto, però è bello da seguire, molto bello. Poi l'atteggiamento migliore possibile, no? Cioè correre leggeri, dove nessuno ti chiede e può legittimamente chiederti più del tantissimo che stai facendo. Sono tre situazioni diverse, secondo me, nel senso che la Lazio è la migliore delle tre, secondo me, come qualità, come organico, cifra tecnica, e ha questo solito problema dell'entusiasmo, per cui sembra sempre che la Lazio sia in una situazione fallimentare, perché c'è un problema di rapporti fra una parte importante della tifoseria e l'allenatore, e forse perché il pubblico vorrebbe un salto di qualità, scusami, il presidente. E un salto di qualità che non è mai arrivato. Però è pure vero che insomma la squadra c'è sempre stata, e Inzaghi da questo punto di vista, per una base che comunque era una base molto buona, è stato di fatto come la scelta migliore, perché non è stata una scelta, volevano Bielsa, che è un grande allenatore, per carità, però diciamo che gli è andata bene, dai. Sì, però voglio dire, si era visto l'anno scorso che Inzaghi comunque, ecco, quindi non era una roba, poi magari Bielsa nel medio periodo avrebbe portato delle cose straordinarie, però intanto, no, come impatto sulla stagione Il Torino ha una base di italiani bellissima, eccezionale, non a caso, insomma, sono ovviamente nazionale. L'Atalanta è la vera sorpresa. La mia sensazione è che Gasperini a un certo punto, all'inizio della stagione, si sia sentito un po' perduto. Una vittoria nelle prime 5 partite ha deciso, anche un po' in discussione, ha deciso eventualmente di sbagliare con i suoi. Bravo, esatto, e ha preso i giovani e sta facendo un lavoro straordinario. Grazie Giancarlo. Grazie a voi. Ciao, piacere, onore, privilegio averti sempre con noi. Quasi un orgasmo. Allora, grazie Giancarlo Marocchi. Borsa. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovic. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali. Verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Tutti convocati. C'è chi domanda via SMS 349-238-6666 chi in questo momento gioca il calcio più bello della Serie A. Questione di gusti, ditemelo voi. 800-24-0024. Intanto io dico che Pierluigi Pardo ha fatto una buona schedina. Hai sbagliato due risultati, Pier. Ah, chi ha sbagliato? Ha sbagliato, ti hanno fregato la Lazio che ha pareggiato a Napoli mentre tu avevi dato la vittoria alla squadra di Sarri, di cui tra poco peraltro non ero convintissimo, però ho sbagliato. E poi ti ha fregato la Sampdoria che ieri aveva delle curiose magliette che sembravano disegnate da un circolo di bambini dell'asilo, che volevano la Fiorentina? La vittoria della Fiorentina? Avevi dato la Fiorentina, sì. Però 8 non male, 8 su 10, tanta roba. Eccellente risultato. Vittoria dell'Empoli a Pescara, un beccato. Cioè, mamma mia, il peggior attacco della Serie A che ne segna 4 a Pescara, che avrà anche qualche residuo, Oddo bravissimo secondo me, avrà qualche residuo, qualche reminiscenza zemaniana, però prendere 4 in casa dall'Empoli è tanta roba. Intanto notizie sparse. Ranieri che chiede scusa ai tifosi, KO il suo Leicester in casa dopo 14 mesi. E Ranieri dice: Champions League è dura, ragazzi, dura per tutti, anche per noi, stiamo pagando qualcosa. Cristiano Ronaldo che vestirà la maglia del Real Madrid, carriera natural durante, anche ostrato per altri 5 anni. Io credo che in parte il ritardo nell'annuncio ufficiale di Pioli come allenatore dell'Inter derivi anche dal fatto che Pioli deve risolvere il contratto con la Lazio e c'è scritto risoluzione tra domani e mercoledì, e quindi credo che questo sia l'inghippo. Signor Lotito, sì, con il quale avere a che fare non è facilissimo. È solo una risoluzione, dai, quindi non credo che ci sarà. Con Lotito. Il solo lo metto tra un po' di virgolette. Posso dirti adesso, che Lotito e Tare si sono beccati un sacco di critiche, credo per elementi, soprattutto per quanto riguarda Lotito, poi non del tutto legati all'aspetto strettamente dei risultati, no? Più legati alla serietà, al rapporto con i tifosi, a certe esternazioni. Insomma, il campo, ragazzi... Questa è squadra vera, l'ha dimostrato anche l'altro assolutamente. E anche il livello dei giocatori che vengono presi in giro per l'Europa è un livello veramente molto alto. Diamo il Wall Street. Anzi, è un'eccellente squadra di calcio. Domenico, Reggio Calabria, buongiorno, che mi dice? Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo parlare della Juventus. Sì. Che è forte, troppo forte. Però quando è un pochettino debole è aiutata. Aiutata? Poi sì, è aiutata abbastanza. Beh, ieri mi pare che sia venuto cosa, un po' al contrario, ora, no? Ha cambiato rigore la tattica, del chi? La Juventus ha cambiato tattica. Sì. L'imbroglio non lo fa nell'incontro diretto, lo fa indirettamente. Cosa? praticamente se la Roma, per dire, minaccia la Juventus, la Roma viene azzoppata prima o poi. Non deve giocare per forza con la Juventus. Questo è quanto dovevo dire. Va bene, ok. Raccogliamo e mettiamo agli atti. Aiutata mi sembra non tantissimo. Tra Milano, ieri lo stesso rigore dato al Chievo. Ci fosse proprio, vabbè, quanto al resto tralascerei con a pardo piacendo. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io premesso che sono Sarri, pro Sarri, però volevo farvi una domanda. Noi veniamo da 4 anni di integralismo tattico di Mazzarri col 3-5-2, sì. Poi 2 anni di integralismo con Benitez 4-2-3-1 e una stagione e mezzo integralismo tattico con Sarri 4-3-3. Domanda, ma per fare l'allenatore del Napoli devi essere integralista? Forse sì. Grazie. Forse sì. Senti, c'è Pierpaolo Marino, guarda un po', avrò un po' di Napoli. Glielo chiediamo a lui, se bisogna essere integralisti. Lo chiediamo a lui. Direttore. Buonasera a voi. Ciao. Bisogna essere integralisti per l'allenatore del Napoli, cioè non cambiare proprio mai idea. No, il problema è che se con un modulo cominci a vincere diventa difficile cambiarlo, questo è il problema, se ti dà dei riscontri, perché Sarri non aveva in questo modulo sicuramente la sua specialità e aveva iniziato male la stagione scorsa con il 4-3-1-2, poi cambiato in 4-3-3 perché con quel metodo penalizzava i grandi esterni che è il Napoli. Quello che dico io, ragazzi, ma adesso che sei in una situazione particolare di emergenza, forse non converrebbe inventarsi qualcosa di diverso? Sì, ma sai qual è il problema? La tua obiezione è giusta, però il problema è che il cambiare modulo per Sarri provocherebbe tanti di quei feriti e di quelle perdite che poi genererebbe altre polemiche. Perché il Napoli ha gli esterni fortissimi, se fa un altro tipo di gioco li penalizza e Insigne non può giocare se non in quel ruolo lì, così come Mertens si esalta in quel ruolo lì, diciamo. E secondo me rinunciare agli esterni per giocare col trequartista e le due punte potrebbe, sì, se ti va bene vinci tutto a posto, ma potrebbe generare poi le polemiche. Ma il ragionamento di Sarri dell'altra sera l'avete sentito, no? Molto preciso sul fatto che perché non gioca col trequartista, perché significherebbe rinunciare a due dei tre lì davanti e snaturare Hamsik. Il ragionamento ci sta tutto. Io quello che imputo un po' a Sarri in questo momento è una difficoltà nella gestione di una situazione che si è fatta improvvisamente complicata e non certo per colpa sua. Partiamo dal presupposto che il Napoli ha avuto una sfiga grossa, nel senso che ha perso l'attaccante che stava facendo bene, chiamato a sostituire Higuain, e questo è un punto fondamentale. Infortunio traumatico oltretutto, quindi nemmeno legato a eventuali responsabilità nei carichi di lavoro, chiaro, no? Quindi chiaro, questo chiaro. È il punto di partenza. Il Napoli ha avuto sfiga in questa situazione. Detto questo, io poi qui mi aspettavo qualcosa in più, lo dico sinceramente, sia dal punto di vista della gestione della personalità dei giocatori. Gabbiadini ha delle colpe sicuramente, però con queste colpe che ha lui c'è anche il fatto che l'allenatore probabilmente non l'ha aiutato tanto. Ma scusa, ma secondo te ha torto De Laurentiis nel punzecchiare il suo allenatore? No, non ha torto nel punzecchiare. Poi nello specifico, se no il 4-3-1-2 non è la soluzione, quindi su questa ragione Sarri. Ma che in assoluto ci possa essere un elemento di... Io mi aspettavo di più da Sarri in questo momento. Eh no, ma anch'io ti dico la verità. Anche perché secondo me c'è un elemento oggettivo di come il Napoli affronta questo tipo di situazione nel gioco offensivo. Mi spiego, la Roma, se anche dovesse perdere o giocare senza Dzeko, ha un tipo di struttura, un tipo di intragliatura, un tipo di abitudine che fa sì che anche col falso 9 riesci comunque a costruire occasioni. Ci sono tantissime partite dello scorso anno con Spalletti, nelle rare circostanze in cui Dzeko è partito dalla panchina, nelle quali questo meccanismo l'abbiamo visto con chiarezza. Il Napoli no, il Napoli ha problemi secondo me nel portare tanti uomini in area di rigore e nel costruire situazioni talmente molto pericolose. Esatto, sembra quasi che insomma a Sarri manchi forse l'ultimo passo per essere davvero un grandissimo allenatore, cioè quello di sapersi inventare qualcosa di diverso che possa funzionare. Ne parliamo con Pierluigi Pardo, per Paolo Marino e con chi vuole intervenire. 800 24 00 24, dopo il time out. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Dunque, con Pierpaolo Marino, un'ultima cosa sul Napoli, poi voglio chiedergli altro. Direttore, cosa ne pensi di quanto ha detto Pardo? Cioè, ci si aspettava onestamente qualcosa di più da Sarri. Poi queste crepe tra Aurelio De Laurentiis e il suo allenatore, le abbiamo già viste con Mazzarri e con Benitez, poi è finita come è finita. Sì, no, è chiaro che ha ragione Pierluigi quando dice che deve esserci una dialettica, ma interna, tra la dirigenza tecnica. In genere sono i direttori sportivi, non i presidenti, a fare questi discorsi agli allenatori, però farlo in sede di comunicazione somiglia molto al voler sviare le responsabilità dalla propria testa verso quella degli altri, anche sì, perché il fatto di aver ricordato che Aubameyang Sarri non lo gradiva particolarmente non è una bella cosa per un presidente che dovrebbe proteggere tutti i suoi tesserati fino a prova contraria, non andare a raccontare le cose negative che possono capitare quotidianamente all'interno, sono fatti privati, insomma. Sì. Poi ha ragione sicuramente Pierluigi, ma però voi guardate il curriculum di Sarri. Sarri sta facendo i miracoli, ha 2 campionati e 10 partite in Serie A, insomma, sì, di cui un campionato consumato ad Empoli, e l'anno scorso ha lottato per lo scudetto quasi fino in fondo, quindi è chiaro che manca di esperienza per quei livelli lì. Oltretutto non è stato neanche un giocatore all'Ancelotti, per dire, con un grande curriculum per aver avuto allenatori che sapevano gestire grandi piazze e quindi aver imparato in fretta. Sì. No, quindi è chiaro che, anzi, è già, bisognerebbe ringraziarlo per quello che sta facendo. È chiaro che dovrà fare errori a spese del Napoli per crescere nella sua esperienza di top leader. Non so quanto spazio c'è anche da quel punto di vista lì. No, sto leggendo una frase di Moratti che ha appena parlato. Io non facevo il casting, ma quasi. Pioli, scelta di buon senso, aggiunge Moratti. Io magari li vedevo per conto mio i candidati, sono sistemi diversi, non è detto che siano giusti o sbagliati. Come la vedi, direttore, questa cosa del casting? Tu non ne hai mai fatti di casting? No, non mi è mai capitato, anche perché nelle società che ho lavorato ci si confrontava sempre solo con il presidente. Io penso che più persone si mettono intorno a un tavolo nel calcio e più si rischia di sbagliare, perché quando pensano molte teste e molti medici sull'ammalato, a volte l'ammalato muore, questa è la verità. Quindi io credo che nel calcio meno teste siano a governare la parte tecnica, tanto si sbaglia comunque, però nella collegialità ognuno la pensa in modo diverso. Bravo. E si crea solo confusione. Sì, non solo nel calcio, Pardo, ma in ogni professione io continuo a pensare che le riunioni più efficaci siano quelle che si svolgono con un numero dispari di persone inferiore a 3. Sì. No, ma la cosa secondo me qui è, come dicevo anche l'altro giorno, non è tanto il casting, nel senso che ci siano diversi pretendenti per una panchina così importante è normale, da un certo punto di vista è normale, sono le modalità che sono bizzarre, che sono curiose. Sono questi dirigenti che arrivano da una parte all'altra del mondo, che si incontrano e probabilmente c'è anche un elemento di fondo di pregiudizio nei loro confronti, nel senso che è difficile immaginare che Tohir conoscesse per esempio De Boer dal punto di vista tecnico-tattico, o che i cinesi si fossero innamorati di Marcelino piuttosto che di Pio. Insomma, capisci che da questo punto di vista la necessità di avere uomini di campo, magari con un DNA nerazzurro, che quindi possano avere anche agli occhi dei tifosi una credibilità diversa, ma soprattutto che sappiano di che cosa stiamo parlando, ecco, questo credo che sia il vero tema. Poi il casting, stasera noi avremo Tiki-Taka, Carlo Ancelotti ha fatto un casting, infatti glielo chiederemo, no? Ricorderete, per la panchina del Chelsea andò a Parigi in un albergo, incontrò Abramovic, c'erano altri candidati di altissimo livello. Cioè non è una cosa, secondo me, assurda che dei dirigenti vogliano vedere 4 o 5 allenatori che possono, che poi si pare siano 3, insomma, in corsa per un posto, è quello che succede per una normalissima assunzione nei ruoli top, no? Non c'è niente di drammatico in questo, è che sono le modalità, l'Inter, cioè vedere tutti questi che arrivano, che arrivano lì, scendono dalla maglia, a un certo punto arriva anche Zola, poi sei arrivato anche tu, no? Pardo, hai fatto il casting anche tu, poi sì, l'ho fatto, non mi hanno neanche fatto passare. Pierluigi, chi è etichettato oltre a Carletto stasera? Ho Simone Inzaghi, ho Carletto e poi ho insomma i nostri opinionisti da Mughini a Uriemma, Massimo Giannini, Sabatini, di tutto di più, insomma Ciccio Valenti, parleremo di mille cose. Salutaci Carletto, dagli un appuntamento anche qua a Radio 24. Volentieri. Dai, Pier. Ciao! Ciao ragazzi. Ciao. Io prima di salutare il direttore ho ancora meno di un minuto, però un pensierino sull'Atalanta me lo deve lasciare Pierpaolo. Sì, assolutamente. Questa è l'Atalanta dei meravigliosi giovani di Zingonia. L'Atalanta, per merito del presidente Percassi, che non dimentichiamolo, è un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta. Lui ha potuto diventare capitano dell'Atalanta passando per le giovanili. E in questo debito di gratitudine ha dato impulso al settore giovanile dell'Atalanta e l'Atalanta raccoglie i frutti, perché questi erano tutti i giocatori che stavano nella mia primavera. L'Atalanta investe il 10% del fatturato nel settore giovanile, fattura una cinquantina di milioni, ne spende 5 all'anno. Se lo facessero i grandi club sarebbero 20-30 milioni all'anno, sarebbero da spendere. Però stanno cominciando a farlo, a cominciare dal Milan. Sì, però che in proporzione l'Atalanta in proporzione investe più di Juve, Milan e Inter nel settore giovanile. Non a caso i frutti si raccolgono. Grazie direttore. E da fare i complimenti anche a Gasperini, che ha avuto il coraggio di metterli tutti insieme. Grandissimo allenatore secondo me. Grazie direttore, alla prossima. Grazie a voi. Ciao Pierpaolo Marino. Ciao. Ci fermiamo per il GR, torniamo. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma. Scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Convocati altro che Piero e Gianluigi. 800 24 00 24, numero verde, avete sentito anche nel GR per Barzagli, 2016 calcistico finito, lo rivedremo l'anno venturo dopo questa lussazione alla spalla, ma soprattutto Allegri adesso si ritroverà complice la pausa per la nazionale. Ho detto, Marchisio è tornato a casa, ovviamente reduce da un lungo infortunio. I piccoli malesseri, i piccoli malani ci possono stare, ma soprattutto Allegri può organizzare un bel torneo di scopone scientifico, perché si trova 4 giocatori da allenare durante questa pausa: Alexandro, Sturaro, Hernanes e Neto, portiere di riserva. Che possono fare? Giocare a biliardo, eh? Giorgio De Luca. Piero, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Ascolti, un'osservazione, parlate di tutto e di tutti, andando a spelucare, proprio analizzando tutte quante le varie situazioni, sì. E non dite, perlomeno, dite molto poco, ecco, diciamo così, del Milan, che mi sembra che, vista la posizione, visto quello che stanno facendo con 4 ragazzotti, mi sembra che potrebbe anche dare un momentino di curiosità, anche solo sì. Io allora sa cosa le rispondo? Dica. Rimanga collegato. Vabbè. Rimanga collegato. Tanto, come sa, noi siamo qui fino alle 15:30 e la scaletta potrebbe riservarle qualche sorpresa o qualche smentita. Gianluigi, buongiorno. Buongiorno, senta, salve, buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo solo dire una cosa, io sono un interista d'epoca del tipo Sardi Bugi Facchetti. Interista d'epoca. E visto che anche Pardo prima stava parlando di DNA nell'azzurro, mi sembra ingiusto che non sia detto una parola solo su Vecchi, che non mi sembrava proprio una scelta del tutto estemporanea. Si poteva lasciare lui almeno fino alla fine del campionato. Cosa dite voi? Io credo che fosse meglio, insomma, Vecchi, io sinceramente non posso giudicarlo, al di là del fatto che è un bravissimo tecnico per quanto riguarda la primavera. L'Inter in questa situazione, in questa condizione, in questo momento aveva bisogno e ha bisogno di un allenatore con maggiore esperienza anche nella gestione di contratti, giocatori importanti, pesanti, eccetera. Quindi nulla contro Vecchi, assolutamente. Era portato a casa il risultato, l'ha fatto in maniera totalmente meritata, grazie al solito Icardi, che o segno fa segnare, un centravanti in questo momento mostruoso. È con Dzeko il migliore che c'è, aspettando che Higuain si inserisca nella Juventus. Questo può essere un altro tema per gli ascoltatori. 800 24 00 24. Io penso servisse un allenatore con maggiore esperienza, anche perché lasciare i Vecchi voleva dire proprio darla su in questa stagione. Non mi sembra il caso, dato che l'Inter siamo soltanto ai primi di novembre, non è distante anni luce ad esempio dal Milan, che affronterà nella prossima partita e che è terzo in classifica. Credo che legittimamente l'obiettivo della proprietà debba continuare ad essere terzo posto, quantomeno l'idea della Champions League, quindi credo sia giusto così. Allora, Alvise Falzone ha pescato le dichiarazioni, una cosa che a me piace molto il lunedì, le tre dichiarazioni più interessanti, intriganti e curiose della giornata. La prima è quella di Spalletti ed è il motivo per cui non è primo in classifica, non lo sa nessuno. Perché una squadra così bella non è in testa alla classifica? Perché non mi riesce a copiare Allegri. Levo anche la giacchetta diversamente a lui. Questo il motivo, la giacchetta. Allora, Bonucci, che in questo caso è qualcosa di diverso, che si emoziona, sapete che ha problemi con il figlio, che sono totalmente questioni personali. Ieri davanti alle telecamere pure un duro come Bonucci si è emozionato. Quando ti unisce un sentimento come l'amore, l'amore per un figlio, per una moglie, e della moglie per il marito, sei pronto a tutto. Sai, come si dice spesso, l'unione fa la forza. Matteo è stato il primo a darcela, dimostrandoci un combattente, un guerriero, non ha mollato, e non gli siamo andati dietro, consapevoli che ce l'avrebbe fatta. Questa era Bonucci, terzo gradino del podio per Sarri sulla questione centravanti e sul lo vuoi Aubameyang? No, voglio qualcun altro, e voi sapete di chi si tratta. Sarri. Ecco, io non vorrei tornare sui discorsi col presidente, però di Aubameyang ne avete parlato oppure no? Perché il presidente ne ha parlato. Aubameyang era stato messo in alternativa con un altro attaccante, io ho detto preferivo l'altro, poi non sono arrivati nessun di due, ma questi sono motivi societari che non posso sindacare. A questo punto l'altro attaccante glielo devo chiedere. Ma se siete attenti lo sapete da sole, se non lo sapete siete stati disattenti. Icardi? Era Icardi? Questa è una deduzione sua. Il nome di qui sopra. Fracordine, mi dai una mano? Come no, sono qui pronto per questo. No, perché mi rimproverano e mi bacchettano perché non ho ancora parlato del Milan. Un ascoltatore prima è intervenuto, però una parola sul Milan. Un altro, 1:10 di trasmissione, nessuna parola sul Milan. Noi abbiamo convocato Francordine, ma ci mancherebbe altro. È il caso di dire state tra il calmo e il molto calmo, perché voglio dire, non è che hanno conquistato le vette cioè hanno fatto una partita in cui devo dire francamente Palermo meritava qualcosina di più. Ma non sono così d'accordo che quel finale è stato, come ha detto Montella, la parte migliore della giornata. Buono, con gente arrivata dalla panchina e dal mercato, a dimostrazione che in molte circostanze per fare la differenza non serve soltanto il talento puro, ma serve soprattutto lo spirito, l'atteggiamento, la voglia di combattere. E poi devo dire che insomma, da questo punto di vista mi sembra anche che stia sbocciando anche questo Suso, che sì, se tu pensi, sì, sì, gran bel giocatore, a me piace moltissimo. Sì, ecco, se tu pensi, questo è un prodotto del calcio spagnolo, arrivato al Milan per la bellezza di 200.000 euro, grazie a all'impuntatura di Rocco Maiorino, il direttore sportivo che è rimasto sempre molto nel cono d'ombra dopo la partenza di Ariedo Braida, e che in quella circostanza mise sotto stress Galliani fino a farselo comprare, e devo dire che è stata un'idea giusta. Sì. Poi Inzaghi non lo vedeva, è andato a Lecce con Mago Gasperini, è sbocciato e abbiamo capito che è un buon giocatore. Non lo vedeva, devo dire francamente, Mihajlovic, che gli fece fare una partita con l'Empoli e poi lo mandarono via. È andato a Genova, che è diventato una sorta di collegio per rimettere a posto le teste. Bravo. Calde. Niang la stessa cosa l'anno prima, e quindi grazie a Gasperini mezzo Milan è già lì pronto per il futuro, e anche mezza nazionale, vista quella che sta facendo con l'Atalanta, quantomeno under 21. Esatto. Senti, Bach è un problema? No, Bach è un problema autentico, nel senso che Bach è un giocatore abituato a fare tanti gol nel campionato spagnolo, dove non aveva l'obbligo di tornare, di aiutare la squadra. Lui era uno, era il Siviglia più Bacca. Lui a questo punto deve mettersi in testa una cosa, che per giocare nel calcio italiano, a meno che tu non sia Van Basten oppure non abbia i gol di Higuaín, devi fare delle cose diverse, anche delle cose diverse. E secondo me il derby non lo gioca lui, lo gioca la Padula, anche perché c'è la comoda scusa del fatto che tornerà giovedì dai trasferti internazionali. Mettiamo che verso il derby ci sia il closing, cosa di cui stiamo subito parlando. Dopo c'è, cioè, subito dopo. Perfetto. Io scommetto sul 23. Scommetti sul 23, ce lo giochiamo all'8 e poi ti richiamiamo. Va bene. Facciamo metà per uno. Sì, poniamo che il 23 ci sia il closing. Sì. Cosa si può regalare per Natale a Montella? Allora, per gennaio a Montella si possono regalare, se i cinesi davvero hanno la capacità di fare, due elementi. Io non senza esagerare, 4, 5, 6, no. Due elementi che devono in qualche modo migliorare nettamente la qualità. Serve al momento, servono come il pane e anche come companatico, un esterno attaccante che dia il cambio a Niang, perché sennò sei costretto a far giocare Bonaventura sguarnendo il centrocampo, e un centrocampista, perché non è pensabile che tu con un 18enne, 19enne come Locatelli possa fare tutta la stagione. Hai due nomi? Io onestamente non faccio questo mestiere, ho detto le due cose, e per il futuro, per esempio, mi piacerebbe molto che Mirabelli, per esempio, si occupasse molto di Caldara, che è un giovanissimo difensore dell'Atalanta, molto bravo, molto bravo, molto molto bravo. Per chiudere, Franco, onestamente, dimmi. Il Milan, guardando la Roma, guardando come sta giocando una grande squadra, ha ritrovato quello che era già, ripeto, e continuo a ripetere, un eccellente giocatore non fuori classe, ma che era Dzeko, che non era il brocco che tutti pensavano fosse. Secondo te il Milan se la può giocare con la Roma per questo campionato B dietro la Juventus? Senti, io qui dovrei risponderti come rispondeva un vecchio stimatissimo e spettacolare allenatore degli anni 50-60, Luis Carniglia. Sì. Quando gli facevano una domanda un po' impegnativa, lui diceva: che risposta volete, Official o Paramico? Allora io ti dico, Official, beh, poi il Milan se la può giocare con la Roma. Paramigos, ti dico, no, non ce la fa. Ce la fa. A meno che a gennaio, certo, dal mercato di gennaio, arrivino due pezzi da 90. È un altro discorso. Allora torniamo a parlarne. Grazie Franco, grazie un davvero. Un abbraccione a te. Ciao, Ciccio Ordine. Io continuo con i convocati, eh. José da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottore, grazie per la convocazione. Spenga la radio rapido, per favore, per carità, se no non sento più niente in culo. Fatto. Divento sordo. Quanto riguarda, io sono tifoso del Napoli, però per il Milan forza Montella da napoletano. Io volevo dire velocemente, allora Sarri se metteva Calleion come punta falso 9 come faceva Benitez, recupereremmo sia Gabbiadini sul suo vero ruolo e Mertens sulla fascia, non ne possiamo fare almeno. A De Laurentiis però due cose le devo dire, che c'è la statistica che i migliori calciatori, vedi Immobile, vengono dalla Campania e la sua scugnezzeria non sappiamo dove è andata a finire, e due dice che lo stadio è un problema tecnico, burocrazia. Napoli Channel quando ce lo fa, lui è uomo di spettacolo di televisione, De Laurentiis basta, troppe chiacchiere, sono finiti i quinquenni e non sappiamo più cosa fare. Guarda, grazie, ascolto. No, io ero incuriosito da una grafica che stavo guardando ora in televisione. La televisione c'è davanti a me. Parliamo tanto di centravanti, di problemi offensivi, di moduli, ma i problemi del Napoli stanno anche in dettagli, che poi magari dettagli non sono. Con Albiol ha subito 6 gol, senza Albiol più o meno negli stessi minuti, un po' di più, ne ha subiti 14. Ora, Albiol non è Beckenbauer, non è neanche Bonucci, secondo me, però è un giocatore che gli dava grande equilibrio difensivo. Jorginho l'anno scorso era un giocatore mostruoso, era il centrocampista che toccava più palloni in Europa, era il vero metronomo di quel centrocampo. In questa stagione perso nella nebbia. Poi ti viene a mancare il centravanti. Io continuo a pensare che Sarri, al di là delle punzecchiature di De Laurentiis, che certe volte è eccessivo, può essere noioso, eccetera, che però Sarri qualcosa si debba inventare su questo telaio, che comunque è un telaio di, secondo me, di eccellente qualità e anche molto più profondo rispetto a quanto non fosse l'anno scorso. Che sia un cambio di modulo, che sia Calleon falso 9 o magari Mertens, che comunque è uno che conclude spesso in porta, anche se non ha il physique du rôle che sarebbe richiesto per il ruolo di centravanti nel Napoli. Con Gabbiadini restituito alla sua posizione di laterale, insomma, io mi aspetto che Sarri qualcosa si inventi. Giuseppe, provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sul casting dell'Inter. Io la trovo una si cosa. Si è presentato anche lei? Si è presentato? Lei naturalmente. Io sì, ma non mi hanno fatto entrare. Pardo l'hanno fatto entrare, ma non è stato preso. Giorgio De Luca faceva parte della commissione esaminatrice, eccetera. Dica, Giuseppe. La vostra coppia è in pole position per il prossimo. Comunque, io da tifoso dell'Inter mi sento quasi rassicurato da questa operazione, perché mi trovo finalmente con una società che vuol fare le cose molto seriamente. Vuol guardare in faccia una persona che prenderà per il prossimo anno, per i prossimi due anni, al quale darà uno stipendio importante, e trovo del tutto normale che gente che sta facendo discorsi di questo tipo si possa guardare negli occhi. Sì, questo è in dubbio, ma ricordiamo il famoso incontro di Moratti a Parigi con Mourinho, quando Mourinho di fatto era inverno, divenne poi allenatore dell'Inter. È normale che ci si debba vedere, che ci si debba parlare, che ci si debba conoscere, che ci si debba confrontare. La cosa, ripeto, curiosa sono state le modalità all'interno delle quali, con le quali tutto questo è avvenuto, perché vedere sfilare gli allenatori uno dopo l'altro, tutti lì che aspettano le immagini in sala d'attesa per il colloquio, è stata una procedura, diciamo così, anomala, questo senza prendere in giro nessuno. Sinceramente io così non l'avevo mai vista. Poi ripeto, anche negli Stati Uniti ci sono, ad esempio nel basket ci sono i casting, gli allenatori vengono intervistati, ci sono dirigenti deputati all'intervista dell'allenatore. Leggetevi i libri se vi piacciono, vi interessano. Phil Jackson anche lui ha avuto colloqui con interviste proprio prima di essere scelto, quindi questo è del tutto normale. Strane sono state le modalità. Ciao Vincenzo Martucci, che piacere. Ciao, stavo sentendo quello che dicevate, e io il casting lo farei ai dirigenti dell'Inter, sì. Sì. Servirebbe, lavoro lungo, eh? Lavoro lungo, c'è da tornare in Cina. Senti, io parlavo di basket e di Phil Jackson, che è sempre stato un santone, uno che faceva meditare i giocatori, procedure certo. strane, meditazioni di vario tipo, e tutti chiusi in una stanza buia, tenendosi per mano per trovare la forza, bruciando la salvia e cose di questo tipo. Intanto qualcuno si addormentava. Adesso c'è anche Djokovic, che non è più numero uno al mondo, però si fa seguire dai Mavs, ex giocatori spagnoli. Io penso che quando un atleta a qualsiasi livello si affida a un guru, è messo male. No, cioè, mi dici così? Sì, ma proprio deciso. Cioè, io ricordo la scena di Borg quando tornò col guru. Vabbè, ma Borg era finito, non dirmi che Djokovic è finito. Ma siamo a quel livello lì, cioè questo guru chi è? Questo guru è un ex giocatore di basso livello che ha lavorato col fratello di Djokovic, che è il numero 500 del mondo. Queste sono le sue credenziali. E fai tutti i presenti in un torneo così importante, dove forse riesci a impedire al tuo rivale di diventare il numero uno del mondo, senza il tuo allenatore di sempre Vaida, senza il tuo super coach Becker, e ti posti dietro guru? Brutto segno. È un consulente d'anima, è in confusione mentale. Pace e amore dall'uomo che nel tennis mi assomigliava più all'Handel, cioè il cannibale, quello che si mangia tutti. Altro brutto segno. No, ma non mi dire che è un segno di... è la prima impronta sul diario del tramonto. Secondo me è scoppiato in questo momento. È scoppiato per una serie di motivi. Primo, il gioco. Lui è un gioco estremamente dispendioso, che non gli consente momenti di pausa, né lui gli consente l'avversario. E non ha colpi facili, non è il Federer, il Murray, il Nadal, che hanno dei colpi che sono sicuri se li porta da casa. Lui li deve costruire tutti. Questo lo costringe ad avere una concentrazione massima e un'attenzione fisica enorme. Esatto. Questo, a questo ci aggiungi il fatto che è una pressione immensa sto povero ragazzo, fra la moglie, che è una che gli mette molta pressione, che pretende molto, le cose benefiche, attività benefiche, eccetera. La sua Serbia che gli mette la sua pressione. Il numero uno del mondo, insomma, ce n'è. Senti, ma una bella vacanza in località sconosciuta senza stregoni, no? Ma ci ha provato, poverino. Ci sono delle sue foto con sua moglie, di lui che fa yoga a Tahiti, non so dove, povero uomo. guarda che questi qui, cioè, tutti parlano della moglie di Federer, no? Ma la moglie di Federer, una volta che gli hai messo l'anello al dito e facendo i primi figli, e lei si è garantita comunque che... la moglie di Federer si è veramente prodigata per quest'uomo, in funzione di quest'uomo si è messa, diciamo, un po', ha fatto un passo indietro. Qui invece siamo in un'altra posizione. La moglie di Djokovic è una donna molto forte, molto che vuole anche imporsi certe cose, che chiede molte attenzioni. E il ragazzo, secondo me, sta pagando tutto. E va dal santone per dire: dammi la mano tu, che mia moglie non la reggo più. Sì. No, Vincenzo, invece, nuovo numero uno, Andy Murray. Mentre Roger Federer, per la prima volta in carriera, lo vediamo causa assenza per infortunio, è un tristissimo numero 16. Federer è uscito dai primi 10 del mondo. Io penso che ci sia ancora una speranziella per lui, così come c'è una speranza per Murray. L'anno scorso mi hanno chiesto: può Djokovic fare il Grand Slam? E io, contrariamente a molti miei famosi, illustri, molto più illustri colleghi, ho detto: io non ci credo, per una serie di motivi. Anche per il fatto che, secondo me, caratterialmente Djokovic è uno che si incazza troppo spesso, passatemi il termine. Si incazza e non capisci perché, come molti atleti slavi, anche del basket, c'è il momento di follia. Vi ricordate Kichanovic che inseguì la gamba? Gli si chiude la vena. Mentre tu dici che Murray potrebbe farlo. Murray tecnicamente ha più cose, e se lui riesce a sfangare l'Australian Open, dove non ha mai vinto malgrado 5 finali, lui, secondo me, ne ha le caratteristiche. Sì. Grazie Vincenzo, sempre un piacere, sempre un piacere. Grazie Vincenzo Martucci, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Fronato in regia, Alvise Falzoni in redazione. Domani alle 14, dopo l'Europa, tutti convocati. Ci vediamo domani. Enjoy!